TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Forte la commozione negli ambienti pesca sportivi triestini per la morte del 31enne amico Aaron Ursic. Le opposizioni in consiglio regionale con una mozione chiedono alla giunta di sollecitare il governo nel riconoscimento dello Stato di Palestina. Dopo la consegna di sabato della nave da crociera alla Carnival, il portafoglio ordini di Fincantieri si consolida con un nuovo contratto da oltre 2 miliardi siglato con l'operatore TUI per la costruzione di due navi gemelle. I reparti nel nuovo ospedale di Pordenone potrebbero trasferirsi dal 29 novembre. La data è emersa da una riunione tra la direzione di ASFO e i collaudatori dell'infrastruttura. La campagna vaccinale contro l'influenza in Friuli Venezia Giulia partirà il 14 ottobre. Sarà gratuita per le categorie a rischio, gli over 60. Gratuito anche il vaccino contro il virus sincizziale per i bambini fino ai 2 anni. Continuiamo a buttare via troppo cibo, sprecando soldi e risorse naturali e inquinando. Il luogo dove avviene più comunemente lo spreco è tra le mura domestiche. Fondazione Friuli e Università di Udine rinnovano l'alleanza a sostegno delle attività didattiche di ricerca e di internazionalizzazione dell'Ateneo. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aaron Ursic, il 31enne sub, morto ieri nel Tirreno mentre si allenava assieme a 2 compagni di immersioni, era molto conosciuto e stimato nell'ambiente dei pescasportivi triestini. È morto a soli 31 anni il triestino Aaron Ursic, vittima di un incidente in mare al largo di Vada, in provincia di Livorno. Ursic era in acqua per un allenamento di apnea insieme a 2 compagni di club in vista dei campionati italiani di pesca subacquea del 4 ottobre. A trovarlo privo di sensi è stato l'amico Eric Godiglia, atleta e allenatore federale, che al telefono racconta: "Forse è stato un malore, non me lo spiego, non mi do pace. Aaron era allenato, 15 metri per lui non erano nulla. Era bravo e consapevole", dice l'amico Codiglia, "ma sappiamo tutti che in questo sport il pericolo è sempre in agguato". Inutili poi i tentativi di rianimarlo a bordo del gommone e l'arrivo dei soccorsi. Il giovane è stato dichiarato morto poco dopo le 13:30. Aaron era titolare insieme al padre dell'officina Trieste Gomme in via Flavia. Lascia la moglie e una bambina di appena 2 anni che aveva festeggiato il compleanno pochi giorni fa. Da tempo Aaron praticava l'apnea a livello agonistico, aveva conquistato brevetti, gareggiato con la nazionale e a Trieste era considerato uno dei migliori. Un atleta fortissimo e una persona stimata, ricordano amici e istruttori. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in città, lasciando attonita la famiglia, la comunità sportiva e tutti quelli che lo conoscevano. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. 2 coppie di friulani sono bloccati da alcuni giorni su una piccola isola dell'arcipelago del Madagascar a causa delle proteste contro le continue interruzioni di acqua ed elettricità in corso nella capitale del paese, Antananarivo, e del coprifuoco disposto dal governo locale per ragioni di sicurezza. Proteste che hanno avuto come conseguenza la cancellazione di numerosi voli aerei, tra cui quelli che avrebbero dovuto riportare i 4 proprio nella capitale, da cui poi avrebbero dovuto ritornare in Italia. Le 2 coppie sono da una decina di giorni in vacanza in Madagascar, al largo della costa orientale dell'Africa. La prima è residente a Fanna, la seconda a Cassacco. I 4 stavano appunto per rientrare ad Antananarivo quando la Madagascar, la Arila Airlines, ha loro comunicato via mail la cancellazione del volo interno. In contatto con la Farnesina e il consolato, le 2 coppie hanno appreso che le piccole isole sono sicure e non ci sono proteste in atto. Parliamo ora del nuovo ospedale di Pordenone. La direzione di ASFO ha incontrato questa mattina i vertici dell'impresa costruttrice del nuovo ospedale per fare il punto sull'avanzamento dei collaudi ed avere una data certa nella quale entrerà in possesso dell'edificio e potrà di conseguenza programmarne l'utilizzo con il progressivo trasferimento dei reparti. Tutti gli intervenuti hanno ritenuto che la consegna anticipata dell'opera potrà avvenire entro il 18 novembre, in quanto l'iter center dei collaudi sta volgendo al termine e i problemi riscontrati nei mesi scorsi sono da ritenersi alle spalle in quanto risolti. Stanto quanto appreso, la direzione di ASFO ritiene, scrive in una nota, che il popolamento del nuovo ospedale potrà iniziare il 29 novembre con il trasferimento dei reparti di medicina interna. Entro altri 15-20 giorni verranno trasferiti il pronto soccorso, la medicina d'urgenza e la radiologia d'urgenza. Nei mesi di gennaio e febbraio sarà la volta della cardiologia, dell'ostetricia, della neurologia e della terapia intensiva. I reparti chirurgici con le sale operatorie saranno spostati fra marzo e aprile dell'anno prossimo. Partirà il 14 ottobre la campagna vaccinale contro l'influenza e il virus sincizziale in regione. L'obiettivo è di raggiungere almeno il 75% di copertura della popolazione, anche se l'obiettivo ideale, secondo il Ministero della Salute, è dell'85%. La vaccinazione è particolarmente indicata per le categorie fragili. In queste rientrano gli over 60, le donne incinte e quanti hanno malattie croniche. Per le categorie fragili il vaccino è gratuito, come pure per il personale sanitario e per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse. Prevista la vaccinazione gratuita anche per i bambini fino ai 2 anni contro il virus sincizziale. In Consiglio regionale le opposizioni stanno presentando una mozione a favore del riconoscimento della Palestina. Una mozione scritta già a giugno e che per certi versi, come dice la prima firmataria, la consigliera di AVS Serena Pellegrino, potrebbe essere superata dagli eventi, ma la calendarizzazione dei lavori in aula ha portato all'esame la mozione appena a fine settembre. Tuttavia Pellegrino ritiene che proprio l'accelerazione degli eventi a Gaza potrebbe convincere anche la maggioranza a votare a favore del documento. Ma sentiamo di che cosa parla il documento. Questa mozione vede la firma di tutta l'opposizione e potrebbe essere tranquillamente anche votata dalla maggioranza, e ci aspettiamo che la maggioranza faccia un'apertura anche, ripeto, soprattutto a seguito degli ultimi fatti. È una mozione che chiede sostanzialmente che la Regione Friuli Venezia Giulia si impegni per la promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nella nostra mozione comunque condanniamo l'atto del 7 ottobre 2023, ma ormai sono passati 2 anni e in questi 2 anni ormai è stato conclamato il genocidio anche da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Vogliamo che questa giunta solleciti il governo italiano a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Fincantieri costruirà 2 navi da crociera per la TUI Cruises. Il contratto di progettazione e costruzione, che vale oltre 2 miliardi di euro, è stato firmato oggi e sostituisce il memorandum siglato nel marzo del 25. Le unità in consegna tra il 2031 e il 2032 saranno più grandi rispetto a quelle inizialmente previste dal memorandum. Avranno una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate e saranno alimentate da motori dual fuel, cioè a gas e gasolio. 12:38, siamo al tempo, cielo sereno sulla costa, da poco nuvoloso a coperto su pianura e montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 19,5 gradi, a Udine Pordenone 19, a Gorizia 18, a Tolmezzo 15,5, a Forni di Sopra 14, a Sappada 11,5, a Tarvisio e Piancavallo 11, sul Monte Lussari 7 gradi, sul Monte Zoncolan 6,5, sulla costa a Grado 18,5, a Lignano 18. Le previsioni a cura dell'ARPA FVG: nel pomeriggio nuvolosità in aumento, specie sulla zona montana e sulla pianura, dove in serata saranno possibili piogge sparse, in genere deboli. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, con possibili piogge intermittenti, in genere deboli, forse moderate su bassa pianura e costa. Oggi è la giornata internazionale sulla consapevolezza dello spreco alimentare, che anche in Italia è ancora molto alto e che avviene per il 60% tra le mura domestiche. Ma una buona notizia c'è: i 20-30enni di oggi si dimostrano molto sensibili a questo tema. Sprechiamo ancora troppo cibo e siamo indietro sugli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite 10 anni fa. E questo, se lo si dovesse riassumere in una frase, quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Waste Watcher, pubblicato in occasione della 6ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. Come spiega l'agroeconomista Andrea Segre, direttore scientifico di Waste Watcher. In questa metrica dei grammi pro capite a settimana, 2015 circa 700, dobbiamo arrivare al 2030 a 350 grammi, e oggi siamo intorno ai 550. Quindi i prodotti che vengono gettati via, i primi in lista sono le insalate, le altre verdure, la frutta, il pane, il latte. Nel nord-est, quindi adesso non voglio dire soltanto il Friuli Venezia Giulia, in realtà lo spreco è più basso. A pesare, sottolinea Segre, sono soprattutto le condizioni socio-economiche delle famiglie. Le classi meno abbienti, diciamo i poveri alimentari, per dare una definizione, sprecano, è un paradosso, di più, perché abbassano il livello qualitativo degli acquisti. La consapevolezza in quest'ambito, tuttavia, ed è la buona notizia del report di quest'anno, è sempre maggiore nella cosiddetta generazione Z, quella dei 9 milioni di italiani che hanno tra i 20 e i 30 anni. Ha due caratteristiche molto positive. La prima è digitale e quindi usa la rete, per esempio la nostra applicazione Sprecometro, che ti aiuta non solo a capire come non sprecare, ma anche a riutilizzare il cibo eventualmente avanzato con delle ricette. Dall'altra, una maggiore propensione al dono, alla relazione, per esempio del cibo in eccesso che viene condiviso. La Fondazione Friuli continuerà a sostenere l'Ateneo Friulano, la sigla del protocollo d'intesa poco fa. Rinnovata la convenzione tra Fondazione Friuli e l'Università di Udine, firmata dal presidente Bruno Malattia e dal rettore Roberto Pinton al termine del suo mandato, la convenzione prevede un contributo di 800.000 euro a favore dell'Ateneo per potenziare didattica, ricerca, internazionalizzazione, valorizzazione delle conoscenze e competitività del territorio. Queste risorse saranno impiegate dall'Università per interventi su due direttrici, con particolare attenzione al territorio di Pordenone. La prima riguarda il rapporto con il sistema economico produttivo. Prevede il rafforzamento dell'UniUd Lab Village, il polo di ricerca avanzato dell'Ateneo, in particolare nell'area dell'energia e dell'agroalimentare, il potenziamento delle attività di raccordo imprese e laureati studenti e il sostegno a progettualità che valorizzino il patrimonio culturale e sociale. Con la seconda direttrice saranno avviate azioni per potenziare l'attrattività e la promozione dell'offerta formativa, innovazione dei percorsi e internazionalizzazione. Lo sviluppo e le esperienze formative in contesti laboratoriali e applicativi, le ricerche archeologiche in Friuli Venezia Giulia e le strutture laboratoriali della sede di Pordenone. Significativi due obiettivi simbolici: la sistemazione del patrimonio storico della Zanussi a opera del Laboratorio di Scienze e Tecnologie Multimediali attivo nella destra Tagliamento e le iniziative collegate al 50° anniversario del terremoto che coinvolgeranno, oltre all'Ateneo, molte altre istituzioni locali: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di istruzione superiore. L'ITS dell'Istituto Volta di Trieste, che forma tecnici biomedicali di altissimo livello, ha trovato nuovi spazi per i laboratori e le aule nella zona industriale. Da fuori una bella palazzina dai mattoni rossi, ex sede della distilleria Stock, l'ombra dell'insegna ancora presente. Una volta dentro troviamo la sala del consiglio d'amministrazione, elegante con tanto di bar, l'unica a non essere stata toccata, ma il resto dello stabile è fatto di laboratori di alta tecnologia in ambito biomedico, realizzati con fondi PNRR nella nuova sede in via Capoto dell'Life Tech ITS Academy, l'istituto tecnico superiore post diploma, l'unico tra Friuli Venezia Giulia e Veneto ad essere dedicato alle scienze della vita. Le iscrizioni per i 5 percorsi sono aperte fino al 5 ottobre, minimo 20 iscritti, richiestissimo dalle aziende ma fatica a decollare il corso in Wellness Hospitality. Laura Cerni, direttore. Parliamo di strutture termali, parliamo di alberghi con spa, sono venuti a chiederci esplicitamente questo tipo di percorso e quindi con delle prospettive di lavoro certe. TAC di nuova generazione, macchinari per radiologia ancora incelofanati, due sale operatorie, un laboratorio attrezzato di microbiologia. Da qui escono tecnici esperti in biomedicina, farmaceutica, telemedicina, controllo qualità. Alberto Stendler, presidente. Oggi i ragazzi che escono dai nostri corsi sono tutti impegnati in impieghi coerenti con la formazione che hanno ricevuto, spesso molto gratificanti sia dal punto di vista della qualità del lavoro, ma anche gratificanti dal punto di vista economico. Quasi tutti i percorsi durano 2 anni, 400 euro la tassa di iscrizione, quota che viene restituita alle ragazze per incentivare la partecipazione femminile. Io ho iniziato il mio percorso dopo le superiori facendo l'università. Grazie alla mia ex professoressa del Deledda sono riuscita a trovare questa soluzione che è molto più teorica, sì, ma anche con la pratica applicata alla teoria che fa più per me. C'è anche chi a 36 anni, dopo aver lavorato in porto, sceglie di tornare sui libri. Sì, al momento ho trovato degli spunti che mi hanno concesso di aprirmi dei nuovi orizzonti e quindi alla fine sono molto contento della scelta fatta. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Partiranno a fine ottobre gli 8 corsi proposti a Trieste dall'Accademia Nautica dell'Adriatico, l'altro ITS Giuliano. 150 i posti disponibili. Bruno Zweck è il direttore generale dell'istituto. I nuovi simulatori ottenuti con i finanziamenti sia regionali che del PNRR sono la vera novità per quanto riguarda i corsi. Sono novità d'avanguardia, il simulatore di navigazione a una plancia di 360 gradi è il più completo e innovativo d'Italia, è collegato a un simulatore full mission di saliamacchine, anche questo tutto con sistemi elettronici e direttotecnici, collegano le informazioni, si parlano e si può intervenire in caso di disfunzioni. Poi abbiamo uno stupendo simulatore, dico di gru, ma in realtà è un simulatore di elevatori, rail, ristec e gru di qualsiasi tipo. Abbiamo anche un drone sottomarino per valutare quello che succede sotto chiglia e anche un simulatore incredibile di antincendio avanzato che il Ministero sta brevettando proprio per i corsi ufficiali. Questo impianto nel suo complesso ha avuto la certificazione del Comando Generale delle Capitanerie e quindi noi siamo un centro internazionale S16W per tutte le certificazioni obbligatorie in questo settore. Zweck, da quando lei è alla guida dell'Accademia Nautica, la sua visione insieme a quella della sua squadra di dirigenti scolastici, quella di puntare su un settore sempre più in espansione, quello che riguarda l'economia del mare. E l'economia del mare, a me piace dire che noi ci occupiamo di tutto quello che è in movimento, non per richiamare il movimento futurista in Italia che pure ha avuto grandi pregi, ma noi siamo il movimento. Peraltro devo dire che ho la fortuna di avere un presidente come l'ingegnere Stefano Beduschi, che peraltro è anche vicepresidente di Italia Marittima e che quindi di movimento sa e è uno, come dire, che dà anche indicazioni non come me soltanto generali ma anche nello specifico tecnico. Ci stiamo allargando anche sui servizi di imprese, altro settore che è in espansione e che ha bisogno di personale. È chiaro che noi lottiamo, come tutti in Italia, ma in questa regione in particolare, con un inverno demografico, la tematica che 10 anni fa è stata sottovalutata, oggi è sotto gli occhi di tutti che se noi interveniamo con politiche opportune avremo seri problemi a mantenere l'insieme delle attività che facciamo in questa regione. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Un omaggio divertente e ironico allo storico tram di Trieste e il gioco da tavolo Tacchite al tram, realizzato da Diego Manna ed Erika Ronchin, che si presenta alle ore 18 a Opicina, nel Prosvetny Dom in Via Nazionale, come evento collaterale della mostra sul tram di Opicina, in corso fino al 12 ottobre. Ma come funziona questo gioco? Lo abbiamo chiesto a Manna. Tacchite al tram è un gioco da tavolo, da 2 a 4 giocatori dagli 8 anni in su, e funziona che praticamente bisogna costruire il percorso che va da Piazza Obregon a Opicina, bisogna portare il tram alle fermate, fare salire i passeggeri, stando attenti alle compatibilità, per esempio una squinzia non vorrà stare vicino a un cotoler o una marantica non vorrà stare vicino a un petesson, cose così, e poi i passeggeri vengono fatti scendere a capolina e si fanno i punti. E poi ovviamente ci sono le famose disgrazie del tram, per cui si possono perdere dei binari, ci sono i lavori di manutenzione e tutte le cose che purtroppo conosciamo, insomma. Quindi l'idea di realizzarlo è nata proprio durante i lunghi anni in cui il tram è stato in sosta obbligata? Sì, esatto. Abbiamo cominciato a lavorarci io e Erika Ronchin, che ha fatto tutte le illustrazioni, nel 2019. Nella speranza che il tram torni prima che noi finissimo di fare il gioco, e in realtà siamo arrivati prima noi nel 2022, proprio per i 120 anni del tram. E poi per fortuna è tornato anche il tram. Da come tu ci hai raccontato, bisogna un po' conoscere alcuni personaggi tipici di Trieste. È facile o difficile capire chi sono e come ci si deve comportare con loro? Beh, è facile perché ci sono le illustrazioni che spiegano tutto e diciamo che il gioco serve proprio a mostrare queste tipicità triestine, per cui non è necessario conoscerle prima, ma vengono conosciute proprio giocando. Siamo allo sport, il 3-1 del Sassuolo non è solo colpa del VAR, l'Udinese analizza gli errori. L'Udinese è arrabbiata, ma lo sono anche i suoi tifosi con lei. La sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo, decisa dai 2 episodi dei rigori cancellati dal VAR. Il primo, il contatto fra Laurientè e Zaniolo. Il secondo, quando Valukiewicz colpisce il piede di Solé. Il DG Collavino non ha dubbi. Immagini non chiare e l'arbitro che invece era a pochi metri e che dal nostro punto di vista aveva valutato correttamente la situazione. La seconda situazione invece è una situazione veramente grave, perché è un rigore tutta la vita. Rimangono alla fine i due KO consecutivi con 6 gol subiti, troppi. Sava in porta non dà sicurezza, mentre la prima per Palma si è chiusa dopo il primo tempo. Il tecnico Runjajc non cerca alibi. When you lose the game, quando si perdono le partite non bisognerebbe cercare scuse, perché abbiamo concesso gol troppo facili, abbiamo anche fallito ottime occasioni per far gol all'inizio con Zaniolo e anche con Christensen. Noi sappiamo quelle che sono le regole del VAR, ma non le capiamo. Le note positive arrivano dall'attacco, il gol di Davis che riapre per poco la gara e l'inserimento di Nicolò Zaniolo, l'uomo che può dare imprevedibilità alla squadra. Io penso che oggi siamo entrati in campo un po' troppo passivi, non siamo stati tanto attivi sulle prime palle, sulle seconde, e abbiamo preparato tutt'altra partita col mister, con lo staff, e non ci siamo riusciti. E ci tenevo a ringraziare i nostri tifosi che sono venuti qua a sostenerci, e alla fine erano un po' arrabbiati, come è giusto che sia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi, il triestino Matteo Parenzan, che ha nel suo palmarès anche l'oro ai mondiali di Granada del 2022 e agli europei di Sheffield del 2023, ha ricevuto poco fa dal Panathlon Club di Trieste il premio El Mulo d'Oro 2025. La cerimonia si è svolta nella sede della Presidenza della Regione in Piazza Unità a Trieste. E con questa notizia chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Letti e Genada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.